con 8-9 con due assenti. Cominciamo ad alzare. Come credi? A luglio quando è che l'ho fissato l'appello? Ma fosse il 20 o il 21? 21. Sì, allora. Se proprio volete, va bene, insomma. Secondo me non è necessario, come credete. Va bene, non voglio fare pressioni di nessuno. Allora, Orrini manca, come manca anche Molinelli, come mancano anche altri soliti, va bene, però a questo punto direi che possiamo iniziare. Guadagni e Rasmussen mi hanno fatto delle domande la volta scorsa. Me le rinfrescate per piacere? Guadagni, la tua la ricordo. Allora, la mia domanda era come. Allora, capisco che sarà troppo complicato spiegare proprio la formula matematica, però almeno quali fattori non conosciuti, se sono stati in mezzo ma non conosciuti, quale fattore si è messo nel calcolo per capire quanto ci stava, per farsi un'idea di quanto c'era il zero a Spagna. Ah, ok, vabbè. Allora, cerchiamo di, magari qualche minuto alla lezione di Aliberti lo dedichiamo, anche per farvi capire il senso del perché io ho voluto dedicare ben il 10% delle mie lezioni a questa cosa. Vedete, il mio tentativo è quello di cercare di farvi capire una cosa, come in generale nel corso io ho cercato di spiegarvi che il mondo sta cambiando e sta cambiando molto velocemente. Allora, se si tratta di un signore di mezza età come me, che ormai si avvia alla terza età, vabbè, chi se ne frega, fra un po' va di pensione, non so se me la pagheranno, a voi proprio che non la vedrete. Però a noi c'è la speranza che forse chissà per qualche tempo ci fanno la carità l'elemosina della pensione. Per cui tutto sommato, anche per quel che mi resta da dire, potrei anche fregarmene. Per voi il discorso è un po' diverso, perché essendo dei ventenni avete bisogno di adattarvi molto rapidamente al mondo che viene, rispetto a una formazione che voi ricevete che è decisamente indietro rispetto alla velocità del cambiamento. Allora, fra le varie cose che io ho cercato di trasmettervi, c'è anche il fatto, guardate, che il mondo che c'è davanti, tanto ho molto insistito, se ricordate, sul tasto della complessità, che è una categoria senza della quale il mondo contemporaneo non si capisce. È una cosa ostinatamente ignorata da molti miei colleghi, soprattutto di età intorno ai 60 come me, e però guardate che senza quello non si capiscono le cose. La complessità però impone la considerazione di aspetti, di nessi particolarmente numerosi e soprattutto di flussi informativi straordinariamente intensi, di pacchetti informativi molto pesanti. Come si fa? E a questo punto non bastano più i metodi tradizionali. Ecco perché io sono andato a prendere questa cosa che nasce nel mondo aziendale, ma che può essere benissimo trasferita nelle nostre discipline, cioè le tecniche di simulazione. Ci sono vari procedimenti, per esempio c'è lo scenario planning che è nato in casa Shell nel 1970, c'è il modello del professor Aliberti e della Maspa. La Maspa non è una cosa qualsiasi, azienda leader in Europa nel suo settore. Quindi ci sono varie scuole di pensiero. Io ho cercato di darvi l'occasione per capire, guardate che c'è questo che diventa uno strumento di lavoro importante che farà la differenza fra, attenzione ragazzi, io auguro a tutti di avere il massimo successo professionale, poi la vita è complicata, non lo so, però guardate che l'accesso a certe metodologie farà la differenza fra chi farà un lavoro di tipo intellettuale analitico e chi farà un lavoro di tipo impiegatizio ripetitivo. Sgradevolissima verità, perché a me non piace l'idea di divisione sociale del lavoro pensata in questi termini, però in realtà il mondo sta andando così. Quindi anche per questo mi è sembrato utile proporvi questo tipo di approccio. Naturalmente, che significa questo? Guardate, dobbiamo capirci. Prima di tutto, capiamoci, la matematica non è ragionieristica, Cioè, certo che la matematica fa dei calcoli, ma la matematica è soprattutto logica. Primo. Secondo, della parte più strettamente matematica delle formule, non tocca a voi occuparvi, diversamente sareste in una facoltà di informatica o di matematica. Voi però dovete essere in grado di interloquire con chi sappia fare un programma del genere. Voi dovete dargli i dati, i quesiti. Voi dovete dire: io voglio sapere questo, voglio sapere se adotto questa misura di repressione del contrabbando di sigarette, che effetti posso avere, per esempio imprevisti, e a quel punto, ragionandoci su, dovete in qualche modo individuare i soggetti, i nessi di relazione, eccetera. Il matematico cosa fa? Il matematico deve tradurre tutto questo in valori, perché ovviamente i calcoli, una volta fatto la formula, se tu poi vuoi avere un risultato, occorre che ciascuna lettera della formula si traduca in un valore numericamente apprezzabile. E qui c'è un passaggio importante che Lamberto ha dimenticato di fare. Guardate che ragionare in termini matematici, termini numerici, è una garanzia per voi. E vi spiego perché. Voi siete destinati, voi siete giovani e avrete accesso al mercato del lavoro in condizioni non favorevolissime, perché la vostra generazione purtroppo sotto questo aspetto non è molto importante. Allora, la classica trappola è quando Alberto mi ha sgridato l'altra volta perché io ho detto a conquistare quote di mercato, lui mi ha sgridato dicendo: se tu dici questo stai mettendo il lavoratore nelle mani del datore di lavoro. Non devi dire conquistare quote di mercato, devi dire conquistare, aumentare del 13% le vendite o aumentare del 25%, perché altrimenti ti troverai nella situazione in cui, quando il lavoratore avrà conquistato il 50% dei quote di mercato e andrà dal datore di lavoro a dire: ho conquistato il 50%, quello gli risponderà: ah, ma io mi aspettavo il 75%. Quindi quantificare e anche chiarire e anche in qualche modo rafforzare la posizione del lavoratore subalterno, cioè capire cosa gli si chiede, cosa deve conseguire, cosa deve produrre, a cosa ha diritto. Anche per questo, capite, quantificare deve far parte di un modo di pensare che a voi studenti di formazione prevalentemente umanistica non è esattamente la cosa più familiare. Ora, la Rasmussen mi pone un problema. Dice: vabbè, ma se hai un dato non conosciuto o hai un dato qualitativo, come fai a tradurlo in un dato? E questo è il senso della domanda, no? Come fai a tradurlo in un numero? Ci sono vari sistemi. Un sistema è quello di arrivarci in via induttiva. Per esempio, quando proprio questi della Masca dovettero fare una stima, non so bene che problema avevano sui camion, perché la Fiat doveva vendere della roba in Turchia, quindi aveva bisogno di avere, i turchi non davano dati, inutile rivolgersi all'equivalente del PRA, perché già il PRA in Italia è in ritardo rispetto alle immatricolazioni, no? In Turchia i ritardi sono di 10-12 anni per cui proprio. E allora loro si inventarono una cosa, si inventarono la le statistiche delle autostrade, gli accessi alle autostrade, che gli davano dei valori che gli permettevano intuitivamente di capire perlomeno il trend di immatricolazioni. In questo periodo c'è stato un aumento di accessi del 8% di cambio, cioè, e così via. Altre cose le fecero sulle assicurazioni. Allora, un metodo può essere quello, se non conosci un dato e cerchi di arrivarci in via indiretta, cioè vai per vie traverse e perlomeno ottieni un'approssimazione, e se ci sai fare è un'approssimazione anche abbastanza buona, cioè non è un'approssimazione molto larga. Ad esempio, talvolta le simulazioni servono proprio a questo, sono delle scommesse. Il fiore all'occhiello della Maspa, sapete cos'è? È un programma fatto per leni, fatto in questa maniera. Prese tutte le gare per lotti petroliferi degli ultimi 60 anni, tutte le caratteristiche geologiche dei vari lotti petroliferi, tutte le varie offerte fatte da ogni singolo concorrente, eccetera, eccetera, noi che cosa ricaviamo? Bene, c'è un nuovo lotto petrolifero che si sta bandendo. Parteciperanno più o meno queste società, X, Y, Z. Che offerta faranno presumibilmente queste società? Allora, il ragionamento è questo. Ogni società fa un'offerta sulla base di propri calcoli, della possibilità. Per esempio, c'è una società che ha tecnologie più adatte, più favorevoli a sfruttare un lotto con certe caratteristiche geologiche piuttosto che un altro, e quindi farà un'offerta più bassa perché ha una tecnologia che gli permette una redditività maggiore. Viceversa, un altro concorrente si comporterà diversamente. Questo permette di fare che cosa? Permette di stimare, siccome questi calcoli non si fanno ogni volta, quindi più o meno ci sono delle procedure standard, tu già sai che la Shell più o meno per un lotto di quelle dimensioni, di quel tipo di ampiezza e di produttività stimata, collocato in quelle, con quelle caratteristiche geologiche, farà più o meno un'offerta X. La ESSO farà un'offerta Y. Beh, questo modello si è rivelato particolarmente felice perché ci sgarrano dell'1% sulle offerte. Ecco, questo è un esempio di come non conosci un dato, però puoi, per approssimazioni successive, ricostruendo in quel caso il ragionamento che c'è dietro a una decisione economica di quel genere, riesci a prevedere quale sarà il comportamento dell'attore, perché l'attore avrà una sua razionalità che lo porterà a comportarsi in un certo modo. Noi cerchiamo di prevedere il suo comportamento. In qualche altro caso si tratta di dato non sconosciuto, ma di dato qualitativo, e allora è chiaro che ricordi dei valori convenzionali. Come fai a quantificare il grado di motivazione delle truppe sul campo in una battaglia? Questo è il segreto di tutti i wargame. I wargame che, quando io ero ragazzo, già grandicello un po' come voi, erano su carta con i quadratini, se qualcuno se lo ricorda, con i quadratini di cartoncino, eccetera. Ogni pezzo aveva una sua velocità di attacco, di difesa e di movimento, per cui poi si tirava il dado, che era la casualità che in qualche modo si sommava. Adesso ormai no, per carità, è tutto informatizzato, fa tutto il computer, gioca anche lui la partita e dice il risultato. Beh, come si fa? Si attribuiscono valori convenzionali, cioè ragionando, voi volete rifare la battaglia di Stalingrado, e il ragionamento è questo. I russi hanno un grado di determinazione maggiore, per esempio, dei tedeschi. Perché? Perché i russi si combattono in difesa, quindi normalmente il combattente in difesa è più motivato di quello in attacco. Oppure, per esempio, un'altra valutazione, i russi hanno truppe più fresche, i tedeschi sono già stanchi per aver fatto la diversione sul Volga e così via. Tutto questo permette di dare dei valori convenzionali rispettivi che permettono, naturalmente, che succede? Puoi sbagliare, e per carità, cioè l'attribuzione, però c'è un vantaggio in questo modo di fare. Intanto il margine di errore si riduce, puoi sempre correggerlo. Uno dei sistemi classici per vedere se un modello di quel tipo funziona, sapete qual è? Noi vogliamo sapere, date queste premesse, chi vince a Stalingrado, numero di uomini, tipo di armamento, eccetera, eccetera, velocità di tiro, disposizione delle truppe, impatto del terreno, eccetera, eccetera. Mettiamo i dati nel computer e vediamo che succede. Se va a finire come è andata a finire, vuol dire che i calcoli erano esatti, o perlomeno si erano molto avvicinati. Se non va a finire così, bisogna capire dove c'è stata una difformità. Quindi si può ragionare anche con valori quantitativi convenzionali, assunti convenzionalmente. Mi sono spiegato? Nel caso specifico della strage di Atocha, che è quello che ha provocato la curiosità sua, il risultato fu ottenuto dall'incrocio di una quantità sterminata di dati, dal mercato dell'oro al mercato del petrolio, per cui per esempio la parità, l'equivalente fra i due valori, implicava per esempio un maggior tasso di ricavo per i paesi arabi, poi tutta un'altra serie di valutazioni, la prosecuzione della guerra in Iraq, una serie di valori molto diversi fra loro, incrociando i quali si otteneva un segnale d'allarme, cioè un indicatore che rendeva estremamente probabile, però attenzione ragazzi, non certo, riteneva altamente probabile un attentato nel marzo del 2004 e indicava la Spagna come il paese più probabile, perché c'erano le elezioni, cioè c'erano tutta una serie di fattori di rischio che aumentavano. In un altro caso, come quello della strage di Londra, il successo fu meno rilevante perché l'attentato era previsto nel mese di giugno e accade nel mese di luglio e non c'era un indicatore preciso sul paese. Quindi non sempre tu hai un'indicazione così, e c'è anche la casualità, magari l'attentato era stato pensato per giugno e per un incidente qualsiasi, uno degli attentatori era stato fermato per ubriachezza molesta, vai a vedere, la cosa era slittata in una settimana. Quindi c'è sempre un margine, stiamo parlando di calcolo delle probabilità, però in termini di calcolo delle probabilità per quanto riguarda il futuro e in termini di possibile esplicazione per quanto riguarda il passato, questa tecnica dà risultati estremamente più efficaci di quelli che non può avere una qualsiasi ricerca umana fatta senza strumento di supporto. Chiaro? Volandi mi chiedeva la volta scorsa, con tutta la simpatia per le banche e le aziende che io mi sono diligentemente annotato. Anche io lo sono in questo momento. Dice però, noi non dobbiamo andare a lavorare in banca o in azienda, che ce ne facciamo di questa storia? Come si traduce tutto questo? Che poi in fondo anche Porrini più o meno era, se ricordo bene, in questa direzione. Come si traduce tutto questo nel campo della politica, nel campo delle scienze sociali, delle cose su cui lavoriamo noi? Beh, allora, ragioniamo su questo, e questo mi dà la possibilità di fare il discorso oggi sulla guerra, anticipando una lezione che avrei voluto fare invece dopo. Guardate, se voi togliete la parola manager, che può indurre a qualche equivoco, era sostituita con la parola decisione, funziona tutto alla perfezione. Abbiamo un soggetto che deve assumere una decisione relativamente a dei risultati che intende ottenere e che sul momento non sta ottenendo, per esempio, no? Ora, il decisore può essere tanto di tipo politico quanto di tipo economico. Qual è la differenza tra i due? La struttura del ragionamento rimane uguale, cioè lo stesso indecisore cercherà di ottenere dei risultati in base ad un ragionamento fra la misura che intende adottare e alcune, diciamo, leggi di comportamento, per cui se io ti do un cazzotto di fatto è molto probabile che tu mi restituisca. Quindi, no? Se io investo soldi in una certa direzione, lo faccio perché voglio avere certi risultati. Ed è ovvio che se investo in un settore in cui non ho concorrenti, è più facile che abbia dei risultati che non in un settore in cui ce ne sono molti. Sarà sandia. Beh, questo modo di ragionare è comune tanto al decisore politico quanto al decisore economico. Però ci sono delle differenze fondamentali. E che io sostanzialmente rinvengo in tre cose. Primo, il decisore economico, nella stragrande maggioranza dei casi, non ha qualcuno a cui rendere conto del suo operato. Voi mi direte, ma il manager deve rendere conto agli azionisti. Se apparentemente in realtà gli azionisti vengono riuniti una volta all'anno, hanno un livello di informazione molto relativo e a meno che proprio non ci sia una catastrofe totale del titolo, difficilmente si ricordano casi di amministratori delegati bocciati dall'assemblea degli azionisti. Il decisore economico in genere non ha qualcuno a cui rendere conto veramente di quello che fa. Il decisore politico no. Il decisore politico ha quasi sempre, badate, il regime democratico, questo è evidente, trasparente, perché il decisore politico ha un'opinione pubblica e un elettorato che a un certo punto voterà. In regime non democratico, anche nel regime più assolutista che si possa immaginare, il decisore politico non è mai proprio del tutto solo, ha pur sempre un inner circle al quale deve in qualche modo rendere conto. Anche Mussolini, quando nel suo inner circle perse la fiducia, ebbe un 25 luglio. A Hitler andò un po' diversamente, ma anche perché ebbe un notevole colpo di fortuna nel decidere di spostare la riunione il 20 luglio del 44 nel capanno all'aperto anziché nella stanza solita. A Stalin andò bene perché vinse la guerra. Quindi, come vedete, anche in regimi non democratici non è proprio. Viceversa, il decisore economico normalmente ha molta più autonomia di decisione. Il che significa una cosa, che mentre il decisore economico non è necessitato a fornire le motivazioni delle sue azioni e tantomeno a preannunciare i suoi piani d'azione, invece normalmente il decisore politico o all'elettorato o al suo inner circle o alla comunità internazionale in qualche modo deve rendere conto, il che significa che più spesso dirà bugie e nasconderà, perché non sempre i piani che si hanno in testa sono confessabili. Non sempre l'opinione pubblica potrebbe gradire un programma di sacrifici. E quindi la cosa più probabile in caso di elezioni è che si cercherà di dipingere di color di rosa la situazione, una tecnica scontatissima di qualsiasi campagna elettorale sarà quella di dire che il predecessore ha sbagliato tutto perché era una bestia. Ciò nonostante, noi porremo un rimedio alla situazione perché ci sono le possibilità di eccetera eccetera, salvo poi dopo qualche tempo dire c'è stata una difficoltà imprevista, c'è la crisi internazionale, c'è stata l'eruzione dell'Etna, il terremoto dell'Aquila, per cui ad esempio certe misure che avevamo promesso non le possiamo mantenere. Questo è un elemento classico della retorica di ogni tornata elettorale. Viceversa, questo genere di esigenze un decisore economico spesso non le ha. Un decisore economico anche all'assemblea degli azionisti difficilmente dirà quali sono i reali piani dell'azienda. Nella maggior parte dei casi si manterrà molto generico e gli azionisti saranno contenti se c'è un dividendo da incassare più consistente dell'anno precedente e tutto morirà. Seconda cosa, cambia la percezione del tempo. L'altra volta un gruppo di voi si fermò in cortile per un po' a discutere con il professor Aliberti, venne fuori il discorso di ma cos'è il lungo termine, il medio termine, il breve termine? Adesso c'è la polemica sul fatto che i manager ragionano tutti in breve termine, ma no, non è breve, medio. Ecco, il problema, attenzione, e cambia anche molto spesso rispetto all'ambito decisionale. L'operatore finanziario è spinto a un termine più breve degli altri perché gli arricchimenti o i crolli finanziari si determinano in tempi estremamente brevi, per cui 2 anni sarà il termine di tempo entro cui normalmente un operatore finanziario riterrà di dover completare un'operazione. 5 anni è già un termine lungo. Viceversa, un decisore non finanziario ma industriale, di un'azienda industriale, non potrà mai ragionare in termini così brevi. La conquista di una quota di mercato, la messa a regime di un nuovo impianto richiedono tempi più lunghi. Il profitto ci sarà, ma in tempi difficilmente inferiori ai 5-10 anni. L'ammortamento di un nuovo impianto, di un nuovo sistema di macchine, ci sarà in un tempo abbastanza lungo e io devo prevedere che quell'impianto mi dia una produzione che devo riuscire a collocare sul mercato in tempi lunghi per ammortare l'investimento, per ammortizzare l'investimento. Il decisore politico ha tempi ancora più lunghi. Un decisore finanziario o industriale, talvolta, per esempio, la Fiat oggi sta ragionando sull'auto del futuro qual è. L'avete sentito, no? Sarà l'auto a biodiesel, sarà l'auto elettrica, sarà l'auto a idrogeno, sarà l'auto ancora a petrolio, a motore misto. E guardate che qui azzeccare o sbagliare fa la differenza fra chiudere bottega o fare un grosso affare. Ma se azzecchi la produzione di 20-25 anni, quindi in alcuni casi anche un decisore industriale si misurerà su tempi, diciamo, di 20-25 anni. Un politico normalmente si misurerà su tempi che vanno dal minimo di alcuni anni al massimo di 40-50 anni. Guardate, non crediate a quelli che vi promettono grandi strategie per i prossimi secoli. Io già quando ero giovane e mi spiegavano che il sole dell'avvenire del socialismo avrebbe brillato prima o poi sulle nostre teste, io che come sapete qual è la mia collocazione politica, rispondevo sì, lo so che il capitalismo c'è i secoli contati. Io però conto di vivere molto meno tempo, insomma, non credo di esserci. Un programma politico è destinato a realizzarsi in un arco di tempo politicamente prevedibile, cioè al massimo a 2 decenni. Se si realizza è andata bene ed è stato superato e bisogna cambiare. Se non si realizza, non si realizzerà più. Quindi la politica ragiona in questi termini, non eterni, non di qui alla fine dei tempi, però neanche di qui a 2 anni, 3 anni. Un programma di grande impegno, una riforma radicale sociale, la nascita di un nuovo Stato, un assetto mondiale, sono cose che tu pensi, appunto, ad esempio, il progetto, l'esempio che vi ho fatto del progetto del nuovo secolo americano, che tra l'altro mi pare che non stia andando più così brillantemente. E il nuovo secolo era basato sul fatto che fino al 2025 gli Stati Uniti non avranno alcuna potenza sfidante. Poi, come vedete, non sta andando così. Ma comunque il calcolo era un calcolo a 25 anni per poter poi mantenere un differenziale di posizione che avrebbe mantenuto il predominio americano nell'ordine mondiale grosso modo per il XXI secolo. Quindi il decisore politico ha sempre una percezione del tempo come lungo periodo, è quello che ragiona per cicli più lunghi di tutti. Altra cosa, il decisore economico ha come unico scopo il profitto. Non si vede quale altro scopo possa avere. Il decisore politico non ha come scopo il profitto, ha un altro scopo, la sicurezza. Adesso distinguiamo per un momento una cosa, lasciamo da parte il caso del decisore politico-economico che si dia che sta fondando qualcosa. Il decisore politico che vuole fondare un partito, far nascere un nuovo Stato, no? Il decisore economico che sta fondando una società, lasciamoli da parte. Parliamo di un decisore economico-politico che gestisca già una realtà esistente. Il decisore politico ha come principale obiettivo non il profitto ma la sicurezza. La prima cosa di cui si deve occupare un decisore politico è il mantenimento dell'unità politica che gli è affidata, che sia esso un partito, un sindacato, uno Stato, un'alleanza o quello che rimane. Bisogna resistere a due cose, alle sfide interne che mettono in pericolo gli assetti consolidati, una rivoluzione o la criminalità organizzata o quello che rimane, e le aggressioni esterne. Per aggressioni esterne non si deve pensare solo all'aggressione militare, e vedete come ci stiamo avvicinando al discorso di oggi, si deve pensare al reciproco rapporto di forza, per il quale io sono in grado di tutelare i miei interessi più di altri, meno di altri, e quindi ho un rapporto di forza che mi garantisce fino a un certo punto. Io posso benissimo fare fronte all'aggressione commerciale, economica, politica di San Marino, già ho dei problemi con l'Austria e non parliamo con la Libia, chiaro? Quindi il decisore politico ragiona sempre in termini di rapporti di forza, sicurezza inteso come rapporti di forza interni e esterni. Questo implica una cosa, che l'atto, che la politica non è separabile dall'uso della forza. Questa è una differenza fondamentale rispetto al decisore economico. Il decisore economico normalmente non esercita direttamente la forza, per forza sto intendendo quella armata, capiamoci. Il decisore politico ha sempre sullo sfondo la questione della forza. E l'atto politico supremo per l'eccellenza è la guerra. Punto. Dopodiché, per capirci, io sono convinto che la guerra sia un'eventualità estremamente negativa da scongiurare, però non è detto che sia evitabile volontaristicamente, e soprattutto la retorica pacifista non ha mai evitato nessuna guerra. Le guerre si possono scongiurare in base a realistiche misure di ordine politico. La retorica del "le guerre le perdono tutti", sì, certo, in guerra tutti hanno delle perdite, quindi in questo senso tutti perdono vite umane, ricchezze, si espongono, hanno danni materiali, certo, tutti, le guerre le perdono tutti, però qualcuno le perde più degli altri. Quello che conta, vi ho detto, è il rapporto di forza. Detto questo, è ovvio che la politica trova un suo limite anche nell'etica, sia chiaro. Però, ciò non di meno, considerare la guerra come un'eventualità esterna al campo di scelte politiche dell'uomo è un atteggiamento non realistico. E quindi oggi parleremo appunto di questo, parleremo della guerra nell'epoca della globalizzazione. Bene, Diena, la parola guerra, mi dica tre parole che sono associate in testa a lei. Se io dico guerra, mi dica cosa pensa, le prime tre parole che le vengono in mente. Morte, distruzione e sofferenza. Lorenzo, lei che pensa? La parola guerra che cosa le fa venire in mente? Non ne ho idea. Se io le dico assurdo, è in atto una guerra fra l'Iraq e l'Iran, lei che cosa pensa? Cioè è una guerra che sta succedendo? Armate che si muovono, odio. Vengo, lei? Io penso violenza, morte anch'io generalmente, sofferenze. Lei? Io? Eh? Morte, violenza, interesse. Eh? No, a te, va avanti, vedi. Interessi, ideologia, violenza. Vabbè, tutti fate cadere l'accento sulla parola violenza, ovvio. Ma di che violenza si tratta? Guardate, violenza è anche la rissa di fra due ubriachi al bar, anche quella è violenza, anche la violenza contro una donna è violenza, certamente. Ma quando parlate di violenza, cosa intendete? Un obiettivo politico? No, violenza, la parola violenza in questo caso, come la usate? Perché violenza può essere anche una donna aggredita di sera, però non credo che in quel senso voi intendevate la parola violenza. Violenza legittima? Violenza organizzata. L'idea che la violenza sia organizzata, beh, però anche una rissa da stadio fra due opposte tifoserie è una forma di violenza organizzata. Ha una forma di legittimazione sociale. Ma non è importante se sia legittimata o no. Io ho detto una cosa, c'è una guerra. Cosa caratterizza lo stato di guerra? Voi avete insistito sulla parola violenza, va bene, che è quella che vi trova tutti d'accordo. Sì, qualcuno ci ha messo ideologia, gli interessi, ma quello è più una motivazione. Una guerra c'è perché c'è uno scontro ideologico di interessi. Oppure la guerra produce morte, distruzione. Ma l'evento in sé in cosa consiste? Va bene, violenza, ma che tipo di violenza? Organizzata, ma non basta. Violenza di massa, ma nei confronti della popolazione, cioè nel senso violenza di massa nei confronti della popolazione non è sempre quella moderna. Se una guerra commerciale non è una violenza nei confronti della popolazione. No, non è una violenza fisica, ma insomma se riduci alla fame un paese non è che sia una cosa carina. Ma la guerra commerciale può anche non essere volta alla riduzione alla fame. Lascia stare la guerra commerciale ora. Allora, i soggetti che fanno la guerra, sopraffazione, chi sono? C'è una sopraffazione in buona sostanza. Quello è un effetto, non è una cosa stessa. I soggetti che fanno la guerra chi sono? Legittimamente gli stati. Gli stati, Legittimamente. Sì, cioè le persone, i soggetti, alla fine l'esercito è composto da soldati che comunque sono, cioè, presi. Come vedete, state avvicinando l'idea che la guerra sia qualcosa che ha carattere militare. Lui ha parlato di armate, vedete come sta spuntando il discorso, la violenza organizzata, lei dice, beh, in fondo sì, persone, ma sono soldati, sono anche quest'idea della sopraffazione, della violenza contro una popolazione, di solito è fatta da un esercito, no? Dimmi. Sa, lei mi ha fatto venire in mente anche un'altra cosa, quando lei ha parlato del terrorismo, degli attacchi, della pirateria, secondo me è un atto di violenza che può essere usato come un atto di guerra, ed è considerato da alcuni stati, penso, come atto di guerra, e anche la violazione di reti informatiche, cibernetiche, piuttosto che altri fattori di violenza sul mercato. Va bene. Allora, come vedete, voi avete una percezione della guerra non molto perché un po' sfocata, perché si afferra la guerra commerciale, la guerra informatica, però c'è comunque sempre questa dominante della violenza, no? E questo richiamo, più o meno esplicitato da alcuni, alle armi, alla dimensione armata. Una guerra non armata non è particolarmente percepibile, diciamo, no? Allora ragazzi, siate contenti perché la guerra è finita. La guerra non c'è più. Tutto sta a capirsi su che significa la parola. Noi siamo abituati a un'idea per la quale la guerra è un fenomeno estremamente variabile nella storia dell'umanità, che va dallo scontro tribale fino alla guerra nucleare più sofisticata. Siamo d'accordo. Però noi veniamo da un'idea per la quale Clausewitz ci dice, per esempio, che la guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi. Vedete, torniamo all'idea che io avevo, dicevo prima, l'atto supremo della politica è la guerra, perché è il momento in cui la volontà del soggetto si concentra e utilizza al massimo le sue risorse economiche, fisiche, in direzione di un risultato. Per questo l'atto della guerra è l'atto politico supremo. Potremmo definire la guerra convenzionale, la guerra alla quale siamo abituati, in questa maniera: l'insieme delle misure e delle azioni militari volte ad imporre la propria volontà all'avversario in un periodo di tempo delimitato fra una dichiarazione di guerra ed un trattato di pace. La definizione classica di guerra è questa: è un'azione che avviene in un tempo limitato. Diceva Grozio, inter pacem et bellum nihil medium, non c'è nihil est medium, non c'è nulla di mezzo, o è guerra o è pace, va bene? Noi siamo abituati a quest'idea, all'idea che la guerra sia anzitutto un'azione di tipo militare, che avvenga in un periodo eccezionale, che questo periodo eccezionale sia molto ben delimitato da due atti formali di natura giuridica, la dichiarazione di guerra e il trattato di pace, e che tutto questo abbia un suo coordinamento rispetto agli obiettivi politici che si vogliono ottenere, imporre la propria volontà all'altro. Diceva giustamente Clausewitz, nessuno fa la guerra per la guerra, salvo qualche maniaco. In genere la guerra si fa in vista della pace, per ottenere la pace più favorevole a sé, per stabilire un ordine di rapporti di forza, come dicevo prima, più favorevoli, che mettano al riparo, nel migliore dei modi, la propria sicurezza. Quindi acquisendo territori, risorse, imponendo agli altri condizioni di pace più sfavorevoli, ad esempio di disarmo, eccetera, che consentano di essere più sicuri. E questo è quello che la guerra è stato effettivamente, grosso modo io direi per 5-6 secoli. Questo è stato il prodotto della giudicizzazione della guerra, prodotto dalla spinta della società cristiana europea per limitare e regolare il conflitto interno. State attenti però a una cosa. Questo processo, che è quello che trova il suo punto alto nell'elaborazione di Grozio, per cui c'è la definizione di chi ha lo ius ad bellum, il diritto di dichiarare guerra, e ha la definizione dello ius in bello, cioè delle modalità che occorre osservare, valeva però all'interno della Respublica Christianorum. Non era applicato, per esempio, nelle guerre coloniali, dove il grado di istruttività di solito è sempre fra simili che si cerca di delimitare la guerra. Viceversa, il massimo di tendenza al massacro si ha quando si produce quello che viene definito il processo di despecificazione, per cui l'avversario non è percepito neanche come umano, è ritenuto altro, sostanzialmente un livello semibestiale. È quello per il quale, ad esempio, gli inglesi nel XVIII secolo ritennero tranquillamente possibile spargere il virus dell'Yersinia pestis fra gli irlandesi per sterminarli. Stessa cosa più o meno fatta dagli americani nei confronti dei pelirossi. Se voi ci fate caso, ad esempio, i tedeschi ebbero un atteggiamento molto più comprensivo e umanitario nei confronti dei prigionieri inglesi e americani rispetto a quello molto più bestiale riservato agli slavi, ai prigionieri anche militari russi, per esempio, o gli slavi. E anche gli americani furono molto più gentili con i tedeschi, oddio, fino a un certo punto, ma furono molto più pesanti con i giapponesi, con i prigionieri di guerra giapponesi. Quindi, come vedete, c'è poi una graduazione. Ma in ogni caso si era affermata questa idea di guerra regolamentata in questo modo. E questo investiva alcune particolari dimensioni difensive della sicurezza. Classicamente le dimensioni della sicurezza che erano ritenute inviolabili erano quelle del territorio, cioè la piattaforma continentale su cui si sta, i confini e le acque territoriali, punto. Dopo si è aggiunta una terza dimensione, quella dello spazio aereo sovrastante, e dopo però se ne è aggiunta una quarta, quella del fondale sottomarino, dove però è del sottosuolo, dove però comincia ad essere già un po' più incerto definire i confini. Si dice fino al centro della Terra, fin dove gli strumenti tecnici consentono lo sfruttamento, però ad esempio in caso di giacimenti di petrolio, soprattutto a largo delle coste, questo crea dei problemini da niente, e ve ne siete accorti adesso con la recente incidente a largo della Florida. Si è aggiunta poi a questa quarta dimensione, se ne sono aggiunte altre due: la dimensione dello spazio, perché lo spazio aereo sovrastante arriva fino all'atmosfera, dopo no, e però i satelliti orbitano oltre lo spazio atmosferico. E però i satelliti vengono ritenuti a tutti gli effetti elementi del territorio dello Stato. Gli Stati Uniti hanno già detto che un attacco contro una loro stazione satellitare verrebbe interpretata come un atto di guerra, per l'ovvia ragione che questo colpirebbe le telecomunicazioni, eccetera, del paese. Poi c'è una dimensione, e quindi già cominciate a capire come diventa difficile stabilire dei confini. Vabbè, un conto è la navicella, ma la rotta, se avviene una collisione, se c'è un qualsiasi altro, come lo regolamentiamo? Quali sono i confini? Ancora peggio con la sesta dimensione, che è quella dell'infospazio. L'infospazio, voi sapete, è quello del cyberspazio, è quello delle telecomunicazioni. Lo spettro magnetico non ha per sua natura confini che lo delimitino. Ma potremmo aggiungere una settima dimensione ancora più importante, che è quella dell'ambiente. E ormai la nube di Chernobyl non ha avuto bisogno del passaporto per arrivare in Polonia, in Finlandia, in Svezia. La nube di anidride solforosa prodotta dai cinesi ormai riguarda anche la Nord Corea, riguarda anche il Vietnam, riguarda anche altri paesi. E allora che succede? Beh, in questi casi la minaccia potenziale finisce per essere affidata al linguaggio delle armi. Nel 1980 Israele ritenne che l'impianto nucleare di Osirak potesse nascondere una minaccia per sé e risolse il problema con raid aereo. Discutibile o non discutibile, è un fatto. Oggi stiamo discutendo della stessa cosa per quanto riguarda l'Iran. Però questo presuppone, al di là del giusto meno che sia fare azioni del genere, presuppone che chi faccia valere le sue ragioni abbia la forza per poterlo fare. Ma se chi emette CO2 e quindi produce mutamento climatico di cui ci si lamenta, sono gli Stati Uniti e la Cina, che facciamo? Dichiariamo guerra alla Cina e agli Stati Uniti? Bombardiamo le aziende industriali cinesi e americane? Sembra probabile, eh? Come vedete, le dimensioni della sicurezza nazionale cominciano a essere largamente eccedenti rispetto allo schema di cui vi ho parlato. A questo punto dobbiamo porci un altro problema: cosa limita la guerra? Perché la guerra non teoricamente noi potremmo pensare che la guerra debba sempre proseguire fino alle estreme conseguenze, sino alla distruzione dell'avversario. In realtà non è proprio così scontato. Nella maggior parte dei casi questo non accadrà, e non accadrà per quattro principi indicati da Clausewitz. Clausewitz è il massimo polemologo, il massimo filosofo della guerra che abbiamo avuto fino ad epoca recente. Clausewitz dice, guardate, che la guerra assoluta, l'ideal tipo che mira all'atterramento e alla distruzione del nemico, è un evento assolutamente straordinario ed eccezionale. Nella maggior parte dei casi la guerra reale seguirà un altro andamento, per quattro ragioni. Primo, per la soglia minima di accesso alla guerra, cioè non tutti quelli che vorrebbero fare la guerra ce l'hanno forse fatta, appunto. Se noi volessimo attaccare la Cina non sarebbe molto probabile che siamo in grado di farlo, oppure per esempio alcuni soggetti non hanno neanche la dimensione della statualità minima necessaria. Secondo, il cosiddetto cerchio magico vincolante, per il quale esistono condizioni di spazio e di tempo stagionali e di terreno, per cui ci sono spazi e tempi sottratti alla guerra. D'inverno non si sospendono le ostilità, perché se nevica anche la Wehrmacht deve fermarsi in Russia. La Siberia non è alla portata degli aerei tedeschi, quindi è sottratta alla guerra. Quindi la guerra non è guerra totale. Ma soprattutto c'è il quarto principio, il più importante di tutti, realizzato da Clausewitz, per il quale la forma difensiva esprime una forza superiore rispetto all'attacco. Per cui l'attacco proseguirà fino a un certo punto, oltre il quale diventerebbe lavoro per tutto, addirittura sforzo nocivo. Le linee di rifornimento si allungano troppo, ci si espone troppo al contrattacco avversario, non ha convenienza spingersi oltre. Sulla base di questi quattro criteri, Clausewitz dice: la guerra conseguirà un suo punto di caduta, si fermerà e lì. Io ne ho contati tre, abbia pazienza. Allora, soglia minima. Cerchio magico. Cerchio magico. E la difesa che esprime una forza maggiore all'attacco. Momento, no, la razionalità politica, giusto, ho saltato una cosa. La razionalità politica per la quale al sentimento ostile si sostituirà l'intenzione ostile. Cos'è questo? Sentimento ostile, ti spacco la faccia perché mi stai antipatico, perché ce l'ho con te. Intenzione ostile, no, io non c'ho assolutamente niente contro di te, stiamo litigando per il possesso di questo telefonino. Finito il punto del contendere, non c'è più, trovato un accordo sul punto del contendere, non c'è più un motivo di inimicizia fra noi due. La razionalità politica tende a sostituire l'intenzione ostile al sentimento ostile. Sentimento ostile è tipico, per esempio, degli atteggiamenti religiosi del fondamentalismo, ma se un soggetto si comporterà secondo i canoni della razionalità politica, tenderà a conseguire il risultato che si ripromette, oltre il quale non ha senso la guerra. Bene, sono questi quattro i principi di Clausewitz. Ecco, il problema però qua è che il Novecento ha mandato a far benedire tutto questo. Il Novecento ha completamente destrutturato l'idea di guerra. Distinguiamo due cose: la guerra atto, azione, dalla guerra stato, cioè fatto giuridico. La guerra fatto giuridico, la guerra stato, era quella teorizzata appunto da Grozio, per cui c'è un periodo delimitato, eccetera, eccetera. Beh, nel Novecento l'ultimo capo di Stato che ha dichiarato una guerra credo sia stato Stalin nel 1946, che ha dichiarato guerra al Giappone nel luglio del 45, quando, in omaggio agli accordi che c'erano con gli americani, ma a tre settimane dalla fine della guerra, fu un atto puramente formale, non lo sapevate? Dopo nessuna guerra è stata più dichiarata, ci sono solo fatti. Tacitamente. E anche i trattati di pace, per conseguenza, in gran parte non si sono fatti. La guerra del Vietnam è finita senza nessun trattato di pace. La guerra di Corea è finita come stato di fatto, ma non c'è stata mai una pace fra le due Coree. E infatti tuttora ogni tanto tende a riscaldarsi un po' il 38° parallelo. Neanche le facce. Neanche le Falkland sono state mai dichiarate come guerra, né mai c'è stato un trattato di pace. Le Falkland sono state occupate dagli argentini, che ritenevano di esercitare il proprio diritto occupando un territorio. E quindi, per esempio, qual è il territorio? Dopodiché c'è stato un contrattacco inglese che ha ripreso il controllo delle Falkland, punto, basta, siamo tornati allo stato quo. Fine della trasmissione. Non dire delle guerre del Medio Oriente, che sono tutte scoppiate senza dichiarazione di guerra e che si sono concluse appunto. L'unico trattato di pace relativo, quello di Camp David, che ha previsto la restituzione del Sinai all'Egitto, però ad esempio fra Israele e Siria non c'è ancora un trattato di pace, la Siria rivendica ancora le alture del Golan. Fra Israele e Giordania una pace non c'è stata e c'è ancora tutto da definire la situazione della cosiddetta Cisgiordania o cosiddetta Galilea e Samaria. Ma qua, io sono stato in Giordania 2 anni fa e al confine c'era una, mi ricordo proprio la bandiera israeliana e quella Giordania insieme che celebravano la pace. Sì, ma non perché c'è stato un atto, un trattato. Una cosa informale. C'è una sospensione delle ostilità, che è diverso. In realtà si è risolto sostanzialmente il... Beh, vabbè, la Giordania ha semplicemente rinunciato al problema dei palestinesi, la Cisgiordania è chiusa. Quindi, come vedete, almeno dal punto di vista formale, la guerra si è dissolta. Quando vi ho detto, ragazzi, la guerra non c'è più, appunto, non ci sono più dichiarazioni di guerra, non ci sono più trattati di pace che dovrebbe. Ma anche dal punto di vista delle condizioni di fatto, i quattro principi di Clausewitz, le cose sono cambiate. La presenza di nuovi sistemi d'arma, ad esempio, ha eliminato totalmente l'idea del cerchio magico. Non ci sono più periodi dell'anno in cui non si combatte, non ci sono più posti non raggiungibili dagli attuali sistemi d'arma. Non c'è più una Siberia al riparo dall'aviazione, dalla Luftwaffe. Non c'è più un accesso, per quanto remoto, non raggiungibile da un sistema missilistico. Quindi non c'è più cerchio magico. Ma non ci sono più neanche le altre condizioni. La razionalità politica è, ma sempre di più, lo scontro, è diventato uno scontro di identità, quindi in quanto tale non mediabile. Lo scontro si può mediare quando ha un modo del comprendere. Quando è uno scontro sulle identità, non ha mediazione possibile. Ha vittoria o sconfitta di uno dei due. Non solo. Soprattutto è venuto meno un principio importante. È venuto meno il principio della soglia d'accesso. La presenza di grandi organizzazioni criminali, come quelle di cui vi ho parlato, di organizzazioni terroristiche, ha fatto sì che la guerra sia di fatto praticata anche da soggetti non statuali. Ma soprattutto è venuta meno una cosa: non è più vero che la difesa è in vantaggio rispetto all'attacco. Con la Seconda Guerra Mondiale il discorso è cambiato. Il Novecento, in quattro guerre, ha stravolto, in quattro occasioni, ha stravolto l'idea di guerra. Nella Prima Guerra Mondiale è nata la guerra di massa e industriale, ma ancora prevaleva la dimensione della difesa rispetto all'attacco. La Prima Guerra Mondiale però ha dichiarato l'importanza del fronte interno, una cosa che non c'era prima. L'esercito tedesco esce imbattuto, non ha perso una sola battaglia, ma crolla perché è crollato il fronte interno. Quindi la dimensione politica della guerra diventa essenziale. La Seconda Guerra Mondiale inaugura la guerra totale attraverso l'uso dell'arma aerea. Attraverso l'uso dell'arma aerea e del supporto dei carri, la guerra, Seconda Guerra Mondiale, è guerra di movimento, dove la prima guerra era stata guerra di posizione. Non guerra di logoramento, anzi conta la logica del primo colpo. Chi colpisce per primo ha un vantaggio. L'idea di distruggere con un bombardamento aereo il sistema difensivo avversario è assolutamente ormai accettata. La prima volta che questo si realizza realmente è nella guerra dei tre giorni del 1967. Il 5 giugno l'aviazione israeliana, con un attacco a sorpresa, abbatte a terra 385 aerei egiziani e siriani, praticamente distruggendo l'aviazione avversaria. In sei giorni le truppe arabe prive di copertura aerea vengono sbaragliate. Una guerra viene risolta in una settimana dopo l'efficacia del primo colpo. Da quel momento le guerre tenderanno a svilupparsi in questa direzione. Le due guerre del Golfo vengono fatte esattamente in questa maniera, attraverso l'arma della guerra aerea. Sono delle considerazioni molto importanti che fa a questo proposito Schmitt sulle conseguenze della guerra aerea. La guerra aerea è guerra totale, anche perché ha una conseguenza imprevista. Come vi ho detto, quando c'è un divario troppo forte fra contendenti, il contendente più debole oppone il territorio dell'ombra come sua arma e diventa guerrigliero. La Prima Guerra Mondiale tiene a battesimo il fenomeno di massa delle guerriglie, le guerriglie partigiane. C'è poi una terza guerra che è stata combattuta, la cosiddetta guerra fredda, che già per la prima volta, vedete, non si accompagna tanto all'idea di carri e di aerei. La guerra fredda introduce la nozione di guerra rivoluzionaria, quindi è guerra condotta attraverso guerriglie, attraverso colpi di Stato, attraverso guerre indirette, per esempio in Corea o in Vietnam o in Afghanistan. Quindi ha tutta un'articolazione completamente diversa, è guerra virtuale di confronto di armamenti. Guardate che spesso gli armamenti, e quelli nucleari prima di tutto, combattono anche quando stanno negli arsenali, anche quando non sparano. Già quello sposta i rapporti forza. Infatti, mi scusi, l'altra volta che poi nelle sue lezioni le aveva detto che comunque l'equilibrio che attuale di pace era gestito sul fatto che appunto i maggiori stati avevano la, cioè, la bomba nucleare. Esatto, quindi. Esatto, quindi il rapporto di forza talvolta si modifica o si mantiene sulla base di un puro confronto teorico di arsenali. Verso la fine del secolo si è introdotto un ulteriore mutamento, la guerra asimmetrica globale, di cui parleremo fra poco, spero di avere un po' di tempo. Quindi, come vedete, l'emergere di soggetti guerriglieri o pirati o organizzazioni criminali ha in qualche modo eliminato il principio dello ius ad bellum. Non solo, la presenza di compagnie private militari, cosiddetti mercenari, introduce un ulteriore elemento. Quindi scompaiono completamente tutta una serie di presupposti. Scriveva Clausewitz, se la forma offensiva, ma lo scriveva paventando questa ipotesi come un pericolo estremo che però per fortuna non è dato a realizzarsi. Se la forma offensiva fosse la più forte, non esisterebbe più alcun motivo di scegliere comunque la difensiva, giacché lo scopo di questa è già negativo, si dovrebbe dunque sempre attaccare e la difensiva diverrebbe un assurdo. È esattamente quello che sta accadendo. Bene, già questo vi fa capire come noi siamo di fronte a un processo per il quale il Novecento, secolo ribelle alla forma, ha dissolto la forma guerra. Possiamo ribaltare l'affermazione di Grozio per cui nil medium est inter pacem et bellum e dire che non esistono pace e guerra, esiste solo uno stadio intermedio che fonde e confonde questi due elementi contemporaneamente. Ora vedremo un po' meglio. In qualche modo c'è una cosa che dovete capire importante, il mutamento dell'idea di strategia. Fino all'Ottocento la parola strategia è stata di netta pertinenza militare. Lo stratega, lo strategon greco, è il generale. E la strategia non è altro che il fine ultimo, la serie, il disegno militare per raggiungere il fine ultimo. La tattica è l'articolazione sul campo di battaglia. Ci siamo? Solo che già dalla fine dell'Ottocento inizia a riversarsi nel campo della politica questo linguaggio. Il primo è Lenin, che inizia a parlare di strategie e di tattica in relazione alla lotta politica. Strategico per il movimento operaio la conquista del potere politico, tattica sono le varie campagne che il movimento fa per ottenere certi vantaggi occasionali e avvicinarsi alla presa del potere. All'inizio era una metafora, ma il linguaggio spesso avverte dei mutamenti sostanziali in atto. E ben presto tutto il linguaggio della politica si impregnò di metafore militari. i dirigenti dei partiti si chiamarono quadri, si cominciò a parlare di mobilitazione politica, esattamente sul modello della mobilitazione militare, la mobilitazione generale, si cominciò a parlare di offensive e di controffensive politiche, si cominciò a parlare di guerra di posizione e di guerra di movimento. Per esempio Gramsci usa moltissimo questi termini. A un certo punto la parola strategia è trasmigrata, si è emancipata dal suo ambiente di provenienza. Non è stata più un concetto militare, ma è stato un concetto politico-militare. La strategia è l'insieme di azioni militari e non militari che noi possiamo utilizzare per ottenere un risultato. Questo risultato può essere di ordine militare, vincere una guerra attraverso anche mezzi non direttamente militari, per esempio il disfattismo politico in campo d'assalto, campagne di stabilizzazione economica, eccetera. Ma può essere anche un obiettivo politico che utilizza strumenti militari attraverso, per esempio, la presa del potere attraverso un'insurrezione o un colpo di Stato. Quindi, come vedete, i due concetti, politico-militare, tendono a fondersi nel concetto di guerra rivoluzionaria. Con la fine del Novecento, a questa, come dire, già unione, si aggiunge la dimensione economica. E se ci fate caso, esistono già tutta una serie di pubblicazioni che parlano di strategia aziendale, di strategia del marketing, di strategia finanziaria. Il manager è sempre più visto come lo stratega, non solo, ma anche lo scontro politico. Avete parlato voi di guerra commerciale, ma si può parlare di guerra monetaria, di guerra finanziaria. Cos'è quello che stanno facendo le agenzie di rating americane in questo periodo nei confronti dell'euro? Se non una guerra economica e monetaria del dollaro nei confronti dell'euro. Però voi già capite qui che sta succedendo qualcosa per la quale il politico, l'economico e il militare ormai non sono più distinguibili l'uno dall'altro. Cioè non è solo che la guerra si imbosca e utilizza altri strumenti, ma è proprio uno stato permanente che inizia a delinearsi, nel quale, ecco, la manovra delle agenzie di rating contro l'euro è una guerra monetaria in senso figurato o è parte di una vera e propria guerra più ampia degli Stati Uniti nei confronti dell'Europa? Possiamo ormai più distinguere fra una manovra di destabilizzazione economica e una aggressione militare? È un piano più ampio diretto a modificare i rapporti di forza strategici, appunto, in via definitiva. Ormai è travolta la consueta distinzione fra tempo di pace e tempo di guerra. Il diritto internazionale diventa imperante. Qui torniamo alle considerazioni sull'ex mercatoria, che significa travolgere le norme e sostituirle con la produzione occasionale e volontaria di norme concordate, pattizie. E qui, a farci capire che cosa succede, ci hanno pensato in particolare due brillanti ufficiali dello Stato Maggiore cinese, posto che realmente siano loro e non altri, Qiao Yang e Wang Xingyangzi, che hanno scritto un libro che vi consiglio di leggere, molto interessante, si chiama Guerra senza limiti, tradotto in italiano, in cui è teorizzato lo stato di guerra asimmetrica. Loro dicono, e intanto qui non si capisce più bene cosa è guerra o no, pensate a una cosa: è indistinguibile il volto della guerra. L'attacco di un solo pirata informatico va considerato un atto ostile o no? Possiamo ritenere l'attacco di un singolo pirata informatico atto di cui è responsabile il suo governo? E se lo fosse, come possiamo provare il rapporto fra l'azione del singolo pirata informatico e il suo governo. L'uso di strumenti finanziari per distruggere l'economia di un paese è una battaglia? Bene, loro teorizzano questo, dicono la guerra asimmetrica si sviluppa su, il nuovo tipo di guerra si sviluppa sulla base di 8 principi, che sono l'omnidirezionalità, cioè l'azione indifferentemente orientata verso tutti i campi, politico, sociale, economico, culturale, religioso, tutti i campi sono possibili campi di scontro. Sincronia, cioè fare in modo da colpire in modo simultaneo in spazi e campi diversi per ottenere effetti convergenti. Da un lato io ti destabilizzo l'economia con la manovra monetaria, da un altro lato ti attacco il patrimonio zootecnico con un'aggressione batteriologica per ottenere in definitiva il crollo della tua moneta o per metterti fuori causa rispetto a un determinato scenario. Ancora, principio di obiettivi limitati, cioè volta per volta questo tipo di guerra non individua l'obiettivo generale e la dimensione tattica è quella dell'obiettivo limitato, a cui però, altro principio, corrispondono le misure limitate, cioè contro ogni singolo, io voglio colpire la para illimitate, io voglio colpire quel singolo paese o voglio colpire quel paese in quel singolo aspetto, però questo lo posso fare utilizzando qualsiasi strumento, un accordo con la malavita o con un'organizzazione terroristica, un attacco informatico, un'azione spionistica, un bombardamento, del tutto, di volta in volta decideremo qual è lo strumento più adatto. Poi c'è il principio di asimmetria di cui adesso parliamo, il principio di consumo minimo per cui utilizzeremo solo quello che è strettamente necessario ottenere, principio ben noto del minimo sforzo e massimo risultato. Settimo, il coordinamento multidimensionale, il che significa una cosa che se dobbiamo mettere d'accordo, dimensione politica, militare ed economica, dobbiamo andare a stati maggiori misti, tra militari, politici e finanzieri e industriali, che è quello che in gran parte sta succedendo nelle grandi potenze. Infine, correzione e controllo dell'intero processo, proprio per la delicatezza di tutto questo, che presuppone la centralità strategica dei servizi informativi. Bene, questo è il quadro generale. Tenete presente che questi signori scrivono prima dell'11 settembre. Molto importante è capire il principio di asimmetria. Cos'è? Il principio di asimmetria è questo. Io non ho interesse a colpire il mio nemico dove è più forte, ho interesse a colpire il mio nemico dove è più debole. Quindi a concentrare le mie forze lì dove il mio attacco può avere più risultati. Però anche il mio nemico ragiona negli stessi termini nei miei confronti. E allora io devo fare in modo da esaltare al massimo le mie capacità difensive, per esempio disorientare il nemico, rivelargli un mio punto debole falso in modo da depistarlo, da scaricare la maggior parte del suo sforzo in un punto in cui mi arrecherà un danno solo molto limitato, oppure attirare il nemico in un punto in cui io godo di un particolare vantaggio di posizione per il quale posso difendermi con uno sforzo inferiore e quindi posso impegnare minori risorse. Questo è un principio di asimmetria, ma il principio di asimmetria significa anche questo. Non è detto che se il nemico mi attacca, per esempio con una manovra di destabilizzazione finanziaria, io debba necessariamente rispondergli sullo stesso piano. Io posso rispondergli anche su un piano diverso. Lui mi attacca sulla moneta, dove io cercherò di reggere il suo attacco, e io risponderò facendo un accordo con un'organizzazione terroristica che opera al suo interno. Lui replicherà cercando di fare un attacco hacker ai miei impianti, alle mie comunicazioni di rete, e io replicherò magari con un attacco batteriologico. Tutto questo, voi capite che da un lato rende il conflitto per sua natura totale. Quel principio di razionalità politica invocato da Clausewitz, per il quale la politica impedisce che il conflitto reale evolva verso il conflitto totale, qui è cancellato. L'asimmetria rende il conflitto totale immediatamente. Non solo, ma tutto questo ha una serie di implicazioni importanti se lo mettiamo in relazione al discorso della guerra coperta. Beh, guardate, la guerra aperta ha una sua logica molto diversa dalla guerra aperta. Nella guerra aperta, se io bombardo una città avversaria, mi devo aspettare la replica del nemico, è evidente, no? In qualche modo. Qui non è proprio così. Se io voglio far sapere al mio nemico, che sono io, ad aver fatto una certa azione, non voglio che lo sappia la sua popolazione, ma voglio che lo sappia lui perché è un'intimidazione, troverò modo tramite i miei servizi segreti a farlo sapere, ma magari io non ho questa intenzione. Magari, pensate all'attacco israeliano alla Mar di Marmara, quello può essere letto anche come un segnale alla Turchia, io ci credo poco, do una spiegazione diversa, ma potrebbe essere un segnale alla Turchia. Però attenzione, io potrei anche avere un'altra strategia, potrei avere la strategia di logorare il mio nemico. Come? Io gli porto un attacco, dopodiché reagisco con una classica manovra di nebbia di guerra, cioè mettendo in giro una serie di informazioni false, sbagliate, suggestive, che indicano altre possibili origini di quel colpo, in modo da accentuare il senso di isolamento internazionale, confondere il mio nemico, disperderne l'eventuale risposta. Oppure addirittura posso puntare a un'altra ipotesi, la cosiddetta guerra catalitica. Io punto a far succedere un incidente di confine fra Jena e Petigiani. Sono io che attacco le caserme del confine a Petigiani, nella zona di Petigiani, ma magari i miei soldati, sto banalizzando, lo fanno in divisa dell'esercito di Jena, per ottenere un incidente che scateni la guerra fra i due. Adesso io sto banalizzando, però guardate che c'è stato un momento in cui negli anni 60-70 si temeva che i cinesi facessero un'operazione di guerra catalitica fra russi e americani. È l'ipotesi del terzo interveniente. Come vedete, la guerra coperta ha una sua logica molto diversa. C'è la tensione verso l'obiettivo finale, ma questo passa attraverso una clandestinizzazione dei conflitti che otterrà una serie di risultati, fra le più diverse. Intanto la guerra coperta è ideale quando si ricorra a forme indifferenziate: accordi di cooperabilità con i terroristi, attacchi hacker, destabilizzazioni finanziarie e così via, rapimenti di scienziati, quello che è. Ma questo poi in qualche modo implica che a un certo punto possa stabilirsi una paradossale complicità fra i contendenti. Se uno Stato non ha interesse alla guerra aperta, ma a continuare la guerra coperta verso chi lo sta aggredendo, mentirà la propria opinione pubblica, non dirà che l'attacco viene da quel paese, perché altrimenti dovrebbe dichiararmi guerra e quindi scendere sul piano della guerra aperta. Mentirà sull'origine di quel colpo e proseguirà la guerra in forme coperte. Tutto questo fa sì che la guerra, da un lato, renda inseparabili le sfere di economia, diritto, politica, no? Militare, eccetera. Dall'altro è una guerra gradabile e reversibile, non ha bisogno di un trattato di pace, ha bisogno di una dichiarazione di guerra, non ha bisogno di un trattato di pace. A seconda dell'evolvere della situazione, dello stabilirsi o no di un rapporto di forze a me favorevole, posso decidere se intensificare o invece diminuire l'attacco, fino a cessare. Posso addirittura avere una situazione nella quale io sto facendo la guerra a Petigiani in Zaire, perché dobbiamo vedere lì sul miniere di diamanti come ci mettiamo d'accordo, però Petigiani e io possiamo essere alleati per quanto riguarda lo scenario petrolifero contro Viena, che è uno che dà fastidio a tutti e due. Tutto questo crea una situazione di continua reversibilità di alleanze e nello stesso tempo di permanenza di uno stato di ostilità. Siamo di fronte alla guerra permanente. Non ci sono più alleati stabili. Tu, Italia, sei il mio alleato nella NATO e sei il mio alleato in Afghanistan. Però sulla questione dei gasdotti tu stai dall'altra parte, non stai con me. Tu hai fatto l'accordo con Putin, lo hai fatto con Gheddafi e adesso lo stai facendo con i francesi e con Chavez, cioè con tutti gli altri americani passati, presenti e futuri, il che non è molto carino da parte tua. E quindi ad esempio io mi riservo di reagire su altri piani. Quindi vedete come questo, da un lato, paradossalmente, quella settorializzazione del diritto di cui vi ho parlato sta diventando una settorializzazione della politica e della guerra, per cui la guerra è uno stato di ostilità permanente ma rifratto in una serie di settori, volta per volta. Soprattutto c'è una cosa, guardate, se io dico la parola guerra sono convinto che a voi in testa viene la parola battaglia, e le guerre si fanno attraverso le battaglie. Cosa decide se una guerra l'ho vinta io o l'hai vinta tu? Beh, classicamente era la vittoria decisiva sul campo militare, no? Oggi le guerre non si fanno più per battaglie, si fanno per operazioni. C'è la sostituzione del concetto centrale di operazione al concetto di battaglia. Non c'è più un campo di battaglia fisicamente individuabile. C'è una singola operazione mirata a un risultato. E che può avvenire anche in ambiti... Io sto facendo un'operazione di destabilizzazione dell'euro. Questo può avvenire tranquillamente attraverso operazioni che io faccio, cioè sulla borsa di Melbourne e su quella di Buenos Aires, su quella di Wall Street e su quella di Mosca. Può avvenire con una campagna giornalistica facendo scoppiare un certo scandalo, per esempio sul giornale londinese, ma può avere anche un effetto, per esempio, nella cacciata di una ditta in India perché non rispettosa di alcune leggi per aver provocato un disastro ambientale. Posso articolare nello spazio, nel tempo e nelle modalità, nel modo più vario, secondo una panoplia, un grande ventaglio di operazioni, di strumenti, un'unica operazione. Questo è fondamentale. Ora, tutto questo voi capite che porta alla dissoluzione, paradossalmente, proprio nel momento in cui lo Stato nazionale viene rimesso in discussione, e certamente il principio westfalico e appare non più idoneo a coprire lo spazio della conflittualità internazionale, e però paradossalmente tutto quello che rimane è l'unità statuale. Le alleanze si dissolvono di fatto, ogni alleato è un potenziale concorrente, un potenziale avversario in un settore diverso, e ogni avversario è un potenziale alleato in un altro ambito. La Cina è alleata, buona alleata dell'Iran, ma voterà sì alla risoluzione sulle sanzioni, perché in cambio sta cercando di farsi dare agli Stati Uniti determinate cose. La Cina è tradizionalmente più vicina al Pakistan che all'India, però in questo momento è alleata dell'India, della Russia e del Brasile nella richiesta del superamento del dollaro come moneta di riferimento internazionale. Come vedete, ogni singolo attore agisce in una condizione di isolamento, di solitudine. Non ci sono più alleanze stabili, c'è una geometria variante, ma soprattutto si afferma un modello di relazioni internazionali nel quale ormai non è più possibile distinguere fra stato di pace e stato di guerra. C'è uno stato di ostilità permanente che può servirsi di un ventaglio estremamente ampio. Ovviamente questo può dar luogo a una vera e propria guerra, nelle forme più tradizionali, ma può dar luogo anche a conflitti indiretti, circoscritti, ad esempio, e non sarei meravigliato, di conflitti indiretti fra Cina e Stati Uniti in Africa per quanto riguarda l'accaparramento delle risorse soprattutto alimentari. Non probabilmente diretto, probabilmente fra paesi più o meno collegati, ma può anche assumere forme diverse. Ora, io mi fermo qui perché già comincia ad essere un po' tardi, un po' voglio sentirvi. Questa è una descrizione generale di uno degli aspetti più importanti della globalizzazione, perché guardate che io ho insistito molto, se voi vi ricordate, sul concetto di asimmetria, ed è proprio questa asimmetria che ha generato la guerra asimmetrica. L'incontro, scontro fra soggetti asimmetrici fra di loro è di per sé conduttore di questo tipo di guerra. E asimmetrici non solo sul piano dei rapporti di forza, ma pensate anche una cosa dal punto di vista della fase politica che ciascuno attraversa. Otto von Inse dice che c'è una certa graduazione fra le fasi di mobilitazione politica che inducono i paesi a dotarsi di milizie di cittadini, è il caso della rivoluzione francese per esempio, no? E fasi di bassa mobilitazione politica, bassa partecipazione, per cui invece si fa più leva sull'esercito mercenario. Bene. Di solito quando la partecipazione politica è più alta c'è una maggiore propensione all'aggressività del paese e viceversa. Beh, noi siamo in una fase in cui come Occidente siamo in una fase calante di partecipazione politica per la crisi delle ideologie, per le ragioni che voi sapete. C'è una scarsa disponibilità a sacrificare la propria vita. Avete sentito Lamberto l'altro giorno che diceva: ah, ma insomma questi fanatici dei fondamentalisti islamici che si fanno saltare in aria, noi, per noi è inimmaginabile. E io gli ho detto: ehi, tu vieni da una città in cui c'è un signore che si chiama Pietro Ricca. Ma non solo, non tantissimo tempo fa in Europa c'è stato un signore che si chiamava Jan Palach che si è bruciato solo e unicamente per denunciare l'aggressione militare contro il proprio paese. Ma potrei fare anche altri esempi. Nella resistenza ci sono state moltissime persone che hanno fatto operazioni suicide, oddio, non deliberatamente tali, ma sapendo di andare incontro a una situazione in cui al 90% ci avrebbero rimesso la pelle. Quindi, ora tutto questo a noi sembra terribilmente lontano e incomprensibile, perché noi abbiamo rimosso quest'idea. Il Novecento è un momento in cui rifiuta fortemente, anzi una delle caratteristiche del nostro tempo, è divertente notarlo, è questo sogno assurdo dell'immortalità per il quale ci sono fior di fondazioni che vengono lautamente finanziate, penso per esempio a quella di Don Verzé a San Raffaele, che è l'unica alla quale non sono stati tagliati fondi, che sta lavorando a un progetto di 120 anni più ulteriormente espandibile. E Don Verzé in un'intervista al Corriere diceva: ogni mattina quando mi sveglio telefono. Ora capisco che Don Verzé abbia raggiunto una venerabile età in cui diciamo che diventa quotidiana l'ansia di avere un buon risultato. E però insomma fa un po' sorridere il fatto che un prete dica: in fondo non è scritto da nessuna parte che si debba morire, veramente è scritto nella Bibbia. E che un prete lo dimentichi è perlomeno strano. Un attore come Bondi, mi lascio un'intervista al Corriere della Sera un mese fa, nel quale dice: ah, la mia vita è cambiata dalla morte di mia moglie, ora sogno l'immortalità. L'Occidente esce dalla secolarizzazione con l'idea dell'insopportabilità dello scandalo della morte, e quindi in quanto tale oggi non è disponibile e ha terrore di altri soggetti, come per esempio gli islamici, che sono disposti a morire. Nella reazione dei diverti io ci ho letto questo orrore di qualcosa di incomprensibile, quasi inumano. Ma perché? Perché siamo asimmetrici come fase, perché noi siamo in una fase di scarsa partecipazione politica, di particolare timore della morte, loro invece sono in una fase esattamente diametralmente opposta. Ecco, l'incontro-scontro fra soggetti asimmetrici genera comportamenti asimmetrici, genera conflitti asimmetrici. Dunque, una delle cose che noi dobbiamo tenere presente, soprattutto quando parliamo di guerra, di crisi, questa non è una crisi come le altre che altererà, probabilmente altererà i rapporti di forza a livello mondiale. Avremo un riallineamento. Questo può passare anche attraverso una fase di conflitto di questo genere. Il problema è che per tutto questo noi non abbiamo neanche un nome, neanche una parola. Guardate che i fenomeni si dominano, si controllano quando c'è una parola che li indica. Ve l'ho detto, definire oggetto, per esempio il quesito, non è un atto neutrale, è già un atto di controllo. Se io dico mafia, sto già indicando qualcosa di preciso. Se poi dico cosa nostra, dico una cosa ancora più precisa. Ho una parola che lo indica. Fino a quando non ho la parola, non ho come comunicare il concetto a voi. E ancora noi abbiamo una parola estremamente, un'espressione estremamente imprecisa, sfocata, come era sfocata la vostra percezione all'inizio, quando mettendo insieme operazioni di hackeraggio, di guerra commerciale, eccetera, sì, quest'idea di guerra, ma l'unità del processo noi non riusciamo a coglierla ancora. Non abbiamo ancora una parola che ci dica cos'è il fenomeno di fronte al quale ci troviamo. E questo è uno degli aspetti importanti, radicali, della globalizzazione. La globalizzazione è anche questo, è anche guerra globale. Bene, senti Gianni, dimmi tu. Sì. Un paio di considerazioni. La prima, secondo me, è che c'è un... ha senso ancora parlare, secondo me, in questo scenario di grandi potenze. Cos'è una grande potenza che margina una grande potenza? Sto pensando all'ascesa di alcuni soggetti che fino a poco tempo fa non parlano neanche della Cina. Per esempio il Brasile, fino a qualche anno fa, chi avrebbe voluto dire che il Brasile poteva mettere in discussione l'egemonia in Medio Oriente statunitense? Invece adesso il Brasile vende il bioetanolo all'Iran come in cambio di accordi nucleari, perché gli Stati Uniti appunto non permettevano il commercio del bioetanolo, dei prodotti dello zucchero in America, e di conseguenza anche un paese che prima era considerato uno schiavetto quasi, viene alla ribalta. E poi qual è l'Africa? E di Sudafrica, qual è anche il loro margine di azione? Sto pensando al rapporto fra il patron e colui che è sotto. Sto pensando per esempio a Cina e Nord Corea piuttosto che USA e Israele. Israele con un'azione come l'attacco alla Freedom Flotilla mette di parte completamente tutto il residuo di fiducia che c'era stato dopo il discorso di Obama al Cairo, piuttosto che la Nord Corea con l'attacco alla Cheonan destabilizza già una situazione che per la Cina è difficile, perché più la Nord Corea è insicura, più la Nord Corea crea instabilità, più la Cina si vede, come dire, vede compromesso il suo ruolo di egemone locale. Rispondo velocemente. Allora, intanto molte delle cose che tu dici sono effetto della situazione di instabilità indotta dalla crisi. In parte questo è effetto anche di ricordate che io ho sempre detto una cosa caratteristica della globalizzazione e dell'ipercapitalismo finanziario, è una ipervelocità, tant'è vero che si parla di turbo capitalismo. Questa velocità non riguarda solo i paesi strutturati, riguarda anche le potenze emergenti, così come più veloce l'arricchimento per esempio di una grande banca d'affari americana è più veloce anche l'occasione di sviluppo per un paese del terzo mondo. Questo dà luogo a una situazione di fortissima instabilità. Io non credo che questa situazione di instabilità possa durare a lungo, cioè una situazione nella quale Israele può permettersi il lusso di mettere in braio in tela Obama, il Presidente degli Stati Uniti, non è una condizione normale, non è una situazione che può protrarsi a lungo. Una situazione nella quale in cui hai un cadavere politico come l'Unione Europea che in buona parte contribuisce a questa situazione di instabilità non può durare a lungo. O il cadavere si toglie di mezzo o decide di darsi un minimo di soggettività politica. Quindi prima di tutto sei in una situazione probabilmente transitoria. in secondo luogo il concetto di grande potenza, è possibile, questo fa parte degli esiti di questa crisi, è possibile che il concetto di grande potenza possa coincidere alla fine con l'idea di grandi spazi, cioè di rappresentante di una determinata comunità o di un determinato ambito spaziale, Asia oppure il mondo islamico oppure Sud America, l'Africa nera e così via. Molto è da capire dove si fermerà la pallina della roulette che sta girando, e solo questa volta pare che sia una roulette russa, quella che si fa non con la con la roulette appunto, ma che si fa con la pistola, che qualcuno corre il rischio di rimanerci a terra questo giro. Che effetto avrà? Non lo so, certo è una cosa. Un altro esito possibile può essere quello del club dei sette imperi, per cui 7, 8, 5 grandi potenze realizzano una sorta di congresso di Vienna, e questo ristabilisce un ordine internazionale. Non lo so, è possibile anche l'idea, in fondo l'umanità ha anche vissuto una guerra dei cent'anni, può esserci anche l'idea di una guerra dei cent'anni, cioè di una prolungata instabilità internazionale, prima o poi però in qualche modo un punto di caduta sarebbe molto grave che non ci fosse. La mia domanda, noi due sostanzialmente, la prima era appunto questo, cioè in una situazione costante di instabilità per quanto il sistema può andare avanti, perché comunque dobbiamo fare il conto che bene o male tra i soggetti in gioco non si può andare avanti per sempre. Almeno secondo la mia opinione. La seconda cosa è, lei ha parlato dell'impero, del progetto di impero, ecco, come si può coniugare questa idea con invece questo cambio di alleanze repentino a secondo dei campi, a seconda delle cose? È semplicissimo. Si coniuga proprio esattamente secondo non il principio di imperium umano, potenza unica, comando al singolare, attraverso l'idea di imperi nazionali o imperi coloniali, che è quello che ha coniato l'Europa con la risoluzione del Medioevo e l'avvio dei grandi imperi coloniali nel 500. È probabile, possibile che tu possa andare a sorta di imperi nazionali. Anche qui, cioè, le palle in movimento sono tante, 6 su 1 miliardo, in cui ci sono molte palle che si stanno urtando fra di loro, per cui è difficile. Per esempio l'erosione dello Stato nazionale, fino a che punto arriverà? Ci sarà magari una crisi di rigetto di tutto questo? E questo risponde anche alla tua domanda sull'instabilità. È probabile che oggi gli elementi di disordine tendono nettamente a prevalere su quelli. C'è un punto di caduta, e questo punto di caduta quanto è lontano? Ecco, questo è uno di quegli interrogativi a cui credo che sia $1 trilione a chi risponde a questa domanda. È probabile che noi stiamo imboccando un tunnel non tanto breve, tanto come per cominciare la crisi che ci avevano raccontato l'anno scorso, che era già finita, che nel 2011 sicuro c'è la ripresa. Mi sembra di capire che non stia andando così, anzi c'è da un lato il proseguire del terremoto monetario, ma ci sono tutti gli estremi che dicono che si sta profilando una crisi spaventosa dell'economia reale, ne parleremo, di cui nessuno parla. È allucinante, cioè guardate che sui giornali voi trovate notizie del dollaro che ha guadagnato 0,21 centesimi sull'euro come un terremoto epocale, nessuno sta dicendo che i prezzi dei generi alimentari in 4 anni sono aumentati del 300%, e parlo di prodotti come il riso per esempio. Nessuno sta dicendo che le riserve strategiche della FAO, si stanno esaurendo, cioè che noi abbiamo fatto fronte nel 2008 al rischio di rivolta in 65 paesi del mondo mettendo mano a riserve strategiche. Queste riserve strategiche si stanno assottigliando paurosamente. Nel giro di alcuni anni è possibile che ci troviamo di fronte alla più grave crisi alimentare della storia dell'umanità. Ecco, quindi da un lato ci hanno raccontato che la crisi stava finendo, però non stiamo vedendo che ci sono ben altre tegole che stanno arrivando. E dall'altro c'è il problema di una sostanziale incapacità di assunzione di decisioni politiche. Guardate che la crisi dello Stato nazionale ha delle ragioni oggettive e difficilmente si può tornare all'ordine westfalico, però il problema è che questo ha lasciato un vuoto in termini di decisionalità politica. Non hai decisione politica possibile, perché ancora i soggetti capaci di decisione politica sono gli stati, erosi, scombicchierati, scassati, quanto vuoi, ma sono gli unici soggetti ancora capaci di decisione, sostanzialmente di una decisione politica a un certo livello. E quanto durerà questo? Ah beh, non lo so. Certo è che se continuiamo su questa strada, cioè io noto che il discorso della fine dell'ordine westfalico, in parte dovuto a dati oggettivi, in parte dovuto anche un'euforia ideologica in questo senso, è stato causa di forte instabilità, contrariamente a quello che si pensava, non è stato fonte di diminuzione di conflittualità, anzi al contrario ci sta restituendo una situazione di sostanziale erosione del diritto internazionale e appunto l'ostilità permanente di cui dicevo. Dimmi. Io volevo chiederle un parere sul ruolo della fanteria in prospettiva. Perché? Me lo chiedi a nome della Brigata Sassari? No, no. Quelli già ne hanno la torta. Che tutti i paesi occidentali hanno in qualche modo abolito la leva obbligatoria. Comunque sia, nel quadro che descrive lei, sostanzialmente la fanteria perde moltissimo valore, moltissima importanza strategica. Eppure, a un certo punto diventa indispensabile, come ad esempio in Iraq, in Afghanistan, se no non si può reggere il confronto. Però, anche il discorso che faceva lei, gli occidentali non hanno più tanta voglia di andare a morire per la pace. Già in America, come il tardo impero romano, ricordano Super Balbari. In Italia la Brigata Sassari, però in Italia tutta la fanteria combatte solo la Brigata Sassari. San Marco, io lo sapevo che c'era una rivendicazione territoriale, già no, per dire, ma la fanteria quindi che ruolo può avere? Servono o servono solo le parti specializzate? Allora, qui a quanto pare la scommessa che stanno facendo gli americani è quella dei droni, cioè l'idea di far a meno del combattente sostituendolo con due cose: col mercenario e con un grande apparato tecnologico basato sui droni. Sapete cosa sono i droni, questi robot combattenti, eccetera. Quindi un apparato di esercito professionale minimo che tu ottieni come? Ottieni dando più che una, ancora un po', Per preparare per la congelazione dopo. Scappo subito questa domanda. Tempo è tirando. Allora, l'idea è un piccolo apparato militare che noi facciamo dando uno status sociale, e infatti se voi ci fate caso i soldati sono per lo più chicanos, neri, donne, cioè chiunque ha più difficoltà di collocarsi sul mercato del lavoro gli mettiamo una divisa addosso, gli diamo comunque uno stipendio affidabile, lo addestriamo per quello che deve fare e poi per il resto droni e mercenari. Tutto questo non sta avendo grandi risultati. I droni stanno combinando dei casini niente male sparando a raffica. Oh, questo non è tanto il problema della popolazione civile che massacrano, perché tanto quella la massacrano anche i soldati, non è quello il problema. Il problema è il costo di una cosa del genere. Quindi intanto l'esercito che hanno in testa è un esercito maledettamente costoso. In secondo luogo è un esercito che a quanto pare sul piano dei risultati. Il problema è che la fanteria è esercito d'occupazione. e a quanto pare il modello occupazione non è un modello auspicabile. Infatti guarda, dopo le sparate che ci sono state sull'Iran, ma io non lo sto vedendo, per fortuna, però attenzione, mi sembra di capire che la reazione afghana e irachena gli è bastata, perché una guerra del genere quanto ti costa? E ti mette a terra. Quindi allora che cosa ci sarà? Uno spostamento? Guardate, c'è un rischio molto elevato che passiamo sul piano del nucleare tattico. Io stasera vado alla presentazione di un libro di un mio amico, ve lo segnale per chi volesse sentire, alla Feltrinelli Duomo alle 6, mio amico Emilio Del Giudice, che è un fisico dell'Istituto Nazionale di Fisica, ha scritto un libro sul fatto che probabilmente gli americani nella guerra del Golfo hanno fatto ricorso a una bomba nucleare a bassa intensità. Apporta tutta una serie di documenti a suo supporto, eccetera, è una cosa molto interessante, ve la segnalo. Il risultato potrebbe essere questo, potrebbe essere quello del, siccome qui, e ne parleremo nella prossima lezione, c'è l'opzione dell'80-20, per cui si calcola che ormai in futuro il 20% dell'umanità sarà più che sufficiente per produrre tutti i beni e i servizi necessari, quindi c'è un 80% dell'umanità che cresce. Non escludo affatto che ci possa essere un'evoluzione verso modelli di guerra diversi che non quelli dell'occupazione. D'altronde le guerre dell'Iraq sono state guerre estremamente sanguinose. Non è detto che la risposta sia la fanteria, può essere anche una guerra estremamente più distruttiva. Oppure può essere quella, come la strada presa in Iraq, dell'accordo con qualche banda di tagliatori che in qualche modo viene presentato con i talebani moderati e cerchi di scaricare su di loro, quindi su una conflittualità interna. Questo poi è una cosa a cui anche l'impero romano ha fatto ricorso. Va bene? Ragazzi, ci vediamo domani. Oh, domani!